Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e siamo in diretta, come annunciato, da Santa Margherita Ligure, dove circa due ore fa si sono aperti i lavori dell'edizione annuale del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Tema: il dopo, l'oltre la crisi. Dopo è il titolo con il punto esclamativo di questa riunione, assemblea dei giovani industriali, convegno annuale, per meglio dire, dopo la crisi ma con le proposte. E di proposte qui ne è già arrivata una molto forte da parte della Presidente dei Giovani Industriali Federica Guidi, ripristinare la Tremonti Bis, chiamata Tremonti Ter, poi ne parleremo ampiamente, ma era quella legge che permetteva alle imprese un'agevolazione fiscale notevole per gli utili che venissero reinvestiti in azienda. È stata chiesta con forza e vi sono già state le prime reazioni. Ha preso la parola poco fa il Presidente del Senato Schifani, faremo ascoltare anche qualche passaggio del suo intervento. Per quello che riguarda il numero per i vostri messaggi è sempre 349-238-6666 e invece partiamo subito dalle notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche dell'aspetto economico della visita di Gheddafi in Italia, l'aspetto politico è ampiamente oggi coperto e presente su tutti i giornali, ma c'è un aspetto economico non da poco, visto il ruolo che esercita la Libia quanto a risorse minerali. E ancora, i mercati sono tutti in flessione ma non in maniera preoccupante. Un dato abbastanza negativo arriva dalla produzione industriale europea, ma è relativo al mese di aprile, laddove invece l'Italia ha segnato, come abbiamo ampiamente raccontato, un più 1,1% mese su mese, chiaramente. E allora le notizie in breve, partendo dalla borsa. Dicevamo borse negative, meno 0,86% il FTSE MIB, meno 0,7% Francoforte, meno 0,3% Parigi, meno 0,2% Londra. L'America invece è invariata in questo momento sul Dow Jones, perde l'1,1% l'indice Nasdaq. Tra i titoli, Bulgari più 6,5%, forte il rialzo di Bulgari, Pirelli più 4,34%, Impregilo più 3,2%, Ubibanca più 1,5%, Banco Popolare più 1,3%, Enel più 0,6% come Parmalat. Sul fronte opposto, la Popolare di Milano perde il 3,8%, le Campari il 3%, Saipem il 2% di calo come Mondadori, Autogrill l'1,80% come A2A, l'1,7% lo perdono sia Tenaris che CIR, l'Eni in calo di 1,5% come le Generali, Fondiaria Sai, Atlantia e Alleanza Assicurazioni. Negative anche Telecom Italia e Intesa San Paolo dell'1,3%, così come Terna. Chiudiamo con Ansaldo, Luxottica e Finmeccanica, che perdono tutte l'1,2%. Mediolanum perde l'1,18%, Fiat perde lo 0,88% e Buzzi Unicem lo 0,7%. Euro su dollaro a 1,40 in questo momento, rapporto euro-dollaro, quindi leggermente in rafforzamento. Passiamo adesso anche alle altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Si diceva dei dati economici italiani. Secondo quanto riportato oggi, per esempio, dal sito relativo al mondo delle calzature, il Made in Italy sta subendo un fortissimo colpo nel settore, in uno degli elementi portanti del nostro export. Mi riferisco al calzaturiero, meno 13% nel primo trimestre dell'anno, con un calo in quantità pari a 9.700.000 paia di scarpe Made in Italy non esportate. Per dare un esempio di quanto pesi, su 64 milioni di scarpe che ogni anno l'Italia vende all'estero, sarebbe l'equivalente della città, se la città di Roma dicono gli esperti, non con l'intera città di Roma non comprasse scarpe per 2 anni. Ancora per quello che riguarda l'economia europea, non solo italiana, dice oggi il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, la crisi è imprevedibile, siamo e restiamo in allerta, anche se sono state prese misure eccezionali contro questa crisi. E Trichet fa eco alle stime diffuse ieri dal Fondo Monetario Internazionale, che oggettivamente segnalavano un miglioramento del clima economico, un miglioramento dopo la sberla presa in questi mesi, ma un miglioramento con prospettive che sono state per la prima volta da almeno 11 mesi riviste al rialzo, soprattutto per il 2010. E anche dal Giappone arrivano notizie, dire confortanti sarebbe eccessivo, ma notizie sicuramente non negative. Perché? Non tanto perché la borsa questa mattina ha chiuso in positivo, ma perché l'indice Nikkei è tornato sopra quota 10.000 punti, è la prima volta da 8 mesi a questa parte. Sempre in Giappone, che è uno dei grandi malati di questa crisi economica, la produzione industriale ad aprile è andata nettamente meglio di ogni attesa, un più 5,9% contro un 5% previsto, e il rialzo è il secondo consecutivo e quindi sembrerebbe rappresentare un segnale di superamento della fase più critica nella crisi economica del Sollevante. E a rafforzare questa ipotesi arriva anche il dato sulla fiducia dei consumatori. Occorre capirsi, a livello internazionale, quando la fiducia è sotto i 50 punti come consenso, come accordo, significa che le attese sono negative; quando sopra i 50 punti vuol dire che le attese sono positive. In questo caso stiamo ampiamente sotto i 50 punti, però a quota 35,7, che è il livello di fiducia nei consumatori giapponesi più alto da 15 mesi a questa parte. E non a caso questi dati dal Giappone, il Giappone ce ne siamo occupati un po' poco forse in questi mesi di crisi, però dal Giappone ieri è arrivata anche una revisione sul PIL in positivo. Certo, sarà sempre una recessione forte quest'anno, meno 3,8% contro il 4% precedentemente previsto. Un leggero miglioramento quindi, anche se sarà comunque il peggior dato nel PIL giapponese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ancora per quello che riguarda le richieste, vedo che alcuni di voi ci scrivono già su Gheddafi, i rapporti economici tra Italia e Libia, ne parleremo più avanti, vi dico solo che la Presidente Confindustria Marcegaglia ha chiesto una zona franca per le imprese italiane che vorranno investire in Libia. Il leader Gheddafi ha detto che darà priorità alle imprese italiane rispetto a quelle di altri paesi. Questo per quello che riguarda le notizie in breve. Passiamo adesso al primo tema di apertura, mi riferisco al convegno di Santa Margherita Ligure, alle richieste che arrivano dai giovani imprenditori, nel caso specifico, come già ci aveva anticipato a questi microfoni 2 giorni fa la Presidente Federica Guidi, richieste che sono state rivolte soprattutto alla parte fiscale. Se infatti il Presidente della Banca Centrale Europea Trichet dice siamo in allerta, oggi a Santa Margherita i giovani imprenditori, partendo dal titolo di questo convegno, dopo la crisi e l'Italia, come prepararsi per ripartire, hanno iniziato a ragionare su quale tipo di sistema produttivo si presenterà all'uscita da questa crisi. Ricordo che domani vi saranno gli interventi in conclusione di questi convegni del Presidente del Consiglio Berlusconi e della Presidente di Confindustria Marcegaglia. Oggi e domani vi sarà anche Dario Franceschini, leader del PD. Oggi invece è stata la volta dei ministri Matteoli e di Pierluigi Bersani. Fra poco dovrebbe parlare anche il ministro Sacconi dopo l'intervento del Presidente del Senato Schifani. Sentiamo le tesi presenti in questo convegno, partendo volutamente da un richiamo, quello del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che praticamente due settimane fa, nelle considerazioni finali del governatore, aveva indicato quali segni e aveva dedicato proprio un passaggio ai segni che questa crisi potrebbe lasciare una volta terminata al sistema economico italiano. Una volta superata la crisi, il nostro Paese si ritroverà non solo con più debito pubblico, ma anche con un capitale privato, fisico e umano, depauperato dal forte calo degli investimenti e dall'aumento della disoccupazione. Se dovessimo limitarci a tornare su un sentiero di bassa crescita come quello degli ultimi 15 anni, muovendo per di più da condizioni nettamente peggiorate, sarebbe arduo riassorbire il debito pubblico e diverrebbe al tempo stesso più cogente la necessità di politiche restrittive per garantirne la sostenibilità. Dobbiamo da subito puntare a conseguire una più alta crescita nel medio periodo. Occorre quindi agire su due fronti: assicurare il riequilibrio prospettico dei conti pubblici, attuare quelle riforme che da lungo tempo attese consentano al nostro sistema produttivo di essere parte attiva della ripresa economica mondiale. Così quindi il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi il 29 maggio, i segni di questa crisi. Allora ascoltiamo quali sono state le proposte arrivate oggi subito dall'intervento della Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Federica Guidi. Ripeto, proposte soprattutto fiscali. Sappiamo bene anche noi, come giovani imprenditori, che la situazione presente con la piccola nave Italia in baria di marosi più grossi di lei non consente la rivoluzione fiscale che questo Paese attende ormai da 15 anni. Ma non è neppure accettabile pensare che questo debba essere al massimo il tempo del rimpianto per le cose non fatte quando si doveva. Ecco perché questa è la sede opportuna per noi giovani imprenditori per avanzare alcune proposte che stimiamo possono essere a vantaggio di tutto il sistema Paese. La finanziaria del 2007 e del 2008 avevano introdotto il credito d'imposta per il sostegno all'innovazione e alla ricerca. La misura permetteva a un'azienda di ottenere un credito d'imposta pari al 10% di tutti i costi sostenuti internamente per attività di ricerca e sviluppo e al 40% di tutti i contratti affidati a università e a enti di ricerca. Il governo in carica, per motivi di razionalizzazione della spesa, ha stabilito un tetto per tali crediti definito da un meccanismo a prenotazione ed alcuni limiti alla possibilità di fruizione. Senza polemica nei confronti di chi è impegnato a gestire il difficile equilibrio dei conti pubblici, riteniamo sia opportuno ripristinare l'automaticità dell'accesso al credito d'imposta prevedendo procedure di valutazione ed erogazione a tempi certi. È davvero di importanza vitale che la crisi economica non blocchi la capacità di innovazione, rendendo le imprese italiane ancora più deboli di fronte alla competizione internazionale. Le imprese italiane hanno chiamato da sempre l'IRAP col suo vero nome, imposta rapina. La sua introduzione nel 97 è purtroppo ancora una ferita che brucia per il nostro sistema produttivo e sicuramente non ci fa piacere che la proposta di abolirla sia rimasta nel forziere delle promesse non mantenute dal governo che ha retto questo Paese fra il 2001 e il 2006. Ad ogni modo, crediamo che resti imprescindibile immaginarne, ecco, almeno una diversa rimodulazione. Così la Presidente di Confindustria Federica Guidi. La proposta appunto della Tremonti Ter ricalca la proposta della Tremonti Bis, ossia tutti gli investimenti, tutti gli utili reinvestiti in beni strumentali o servizi, diciamo più comunemente reinvestiti in impresa, venivano fiscalmente avvantaggiati. E allora le reazioni a questo, ascoltiamo il primo commento a questa proposta, quella dell'ex ministro Pierluigi Bersani, attualmente responsabile economico del PD, proprio sulla proposta fiscale arrivata da Federica Guidi. Ma rimodulare può essere anche un più e un meno, secondo dove metti il più e il meno. Nel senso che qualcuno può andare al ribasso e qualcun'altro no. Aver tolto, per esempio, come primo atto di questo governo la tracciabilità dei pagamenti e le limitazioni all'uso del contante significa aver buttato via qualche miliardo di euro. Vogliamo partire da lì e poi occuparci di carico fiscale, in particolare per chi non ha redditi, se vogliamo dare un minimo di vitalità ai consumi, perché un conto è abbassare il carico fiscale per chi ha bisogno di consumare e un conto è alleggerire il carico fiscale per chi non ha bisogno di consumare. Questo ha un effetto economico diverso e credo che tutti dovremmo convenire sul fatto che oggi bisogna mettere reddito, mettere potere d'acquisto in tasca a chi ha bisogno di spendere, senza dimenticare per esempio le liberalizzazioni in un momento come questo, sulle quali invece si sta facendo con tutta evidenza una marcia indietro. Quindi leggermente diversa la posizione di Bersani, che ha detto lavorare sul carico fiscale di chi poi questi soldi che risparmia li può spendere, e quindi riferito alle fasce più deboli, non a chi questi soldi non li spende, e poi di nuovo è tornato sulle liberalizzazioni. Ma l'ex ministro Bersani ha anche dato un giudizio di insufficienza, in questo caso all'azione svolta dal governo finora per uscire o aiutare le imprese a uscire dalla crisi. Sarebbe meglio che invece di prevedere tutti quanti facessimo qualcosa in più, perché ormai è chiaro lo scenario. Noi siamo in Italia un meno 5 di PIL quest'anno qua e l'anno prossimo, benché vada, riprendiamo con uno 0,5, quindi il pavimento è bassissimo e questo non può non avere effetti sull'occupazione. Temo anche sulla tenuta delle nostre piccole e medie imprese che hanno problemi di liquidità evidenti e quindi io credo che bisogna avere una cura un po' più d'urto per questa crisi, questa è la mia impressione. E fare qualcosa in più, fare quello che non abbiamo fatto fin qui, cercare di mettere un po' di dinamismo nell'attività economica. Che noi abbiamo il picco della crisi alle spalle, dirlo è una banalità, è un'ovvietà, ma gli effetti di questa crisi ce li abbiamo davanti, sia sotto il profilo della tenuta, ripeto, di molte piccole imprese, sia sugli effetti sociali di questa crisi. Non è vero che siamo a posto con i redditi di chi perde il posto di lavoro. Bisogna prendere atto di questa cosa. Ogni mese che passa a non prenderne atto, noi perdiamo un colpo. Ecco, questa mi pare la cosa più vera da dire. Giudizio diverso invece da parte del ministro alle infrastrutture Matteoli, che ha detto al microfono la nostra Anna Marino, come nel caso anche dell'ex ministro Bersani, in quanto le grandi opere potranno fornire un aiuto, diciamo così, anticiclico alla stagnazione / recessione della nostra economia. Le opere infrastrutturali che abbiamo approvato, dicono i tecnici, che possono far salire il PIL dello 0,7%. Poi che l'opposizione dica che si possa sempre far più, io questo lo credo, conosco il mestiere dell'oppositore, l'ho fatto per tanti anni, però francamente, stante la crisi finanziaria e economica, mi pare che questo governo, anche alla luce del risultato elettorale dell'Europea, può dire che è il governo in Europa che è stato apprezzato più di tutti gli altri paesi. Noi abbiamo preso dei provvedimenti in questo anno che hanno attenuato la crisi, non dico che hanno risolto la crisi, ma attenuata sicuramente. Quindi gira e rigira sempre delle misure per accompagnare il sistema economico italiano, in questo caso fuori dalla crisi. Andiamo a parlare. Certo, vedo già molti messaggi sulla proposta arrivata dal presidente dei dei giovani industriali Federica Guidi. Attenzione, la Tremonti bis non detassava completamente tutti gli utili reinvestiti in beni strumentali, in attrezzature. Aveva alcune regole, come già si spiegava prima, intanto era il 50% escluso dalla tassazione e poi occorreva che gli importi investiti fossero superiori a quanto era stato investito e acquistato in questo caso negli anni precedenti. dicevo, gira e rigira sempre dell'uscita e dei modi per uscire da questa crisi parliamo, e allora è qui presente nei nostri studi a Santa Margherita Ligure una voce conosciuta, il direttore del Centro Studi di Confindustria, nonché ex collega del Sole 24 Ore, Luca Paolazzi. Buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Cerchiamo di fare il punto, perché a mio avviso in queste settimane la crisi sta diventando un po' più come un'anguilla, nel senso sfugge alla definizione netta e più tranchant dell'inizio, in cui tutto andava male, tutto crollava, non si capiva... Meno male che un'anguilla e non un pesce lesso, diciamo, ma in cui tutto crollava, tutto sembrava non avere un fondo. Il fondo sembra essere toccato. Ieri abbiamo visto la Banca Mondiale dire da via d'uscita ancora lontana, ma le prospettive sul 2010 sono leggermente migliori delle attese. C'è un timore forte, cioè quanto potrà reggere il sistema produttivo italiano delle piccole e delle medie imprese in attesa che questa ripresa vera e propria arrivi. Le vostre previsioni su maggio quanto a produzione industriale non sono esaltanti a livello di mese su mese? No, segniamo un nuovo calo. È un calo che sostanzialmente compensa l'aumento di aprile. Questo significa fondamentalmente che la ripresa non è ancora cominciata, e il fatto è che questa crisi cambia anche il significato della parola ripresa. Normalmente quando lo sentiamo tiriamo un sospiro di sollievo, ci rallegriamo, sfreghiamo le mani e diciamo effettivamente il peggio è passato. Questa crisi invece è stata così profonda, il pavimento su cui siamo caduti è così basso, e non solo in Italia, in tutte le nazioni, che la capacità produttiva inutilizzata è ampissima, soprattutto in alcuni settori. Ciò comporterà, se non ci sarà diciamo una ripresa più consistente di quella che ci immaginiamo, riteniamo possibile, visti i numeri che escono in questa fase, processi di cambiamento, di ristrutturazione, di taglio di capacità e quindi diciamo rischi occupazionali. Da quello che riusciamo a vedere ci sembra di capire che in questo caso per l'Italia il problema sia veramente di timing, come dicono quelli che hanno studiato, cioè del tempo in cui questa ripresa arriva. Fermo restando che tu mi sembri d'accordo con la definizione del ministro Tremonti, che siamo di fronte a una terra incognita, per cui non sappiamo bene in quale forma avrà questa ripresa, perché è la prima volta che ci troviamo di fronte a una crisi che ha avuto questo disegno, questa figura iniziale. La sensazione è che veramente i mesi possono fare la differenza, cioè che il tessuto delle piccole e medie imprese italiane, soprattutto le piccole, abbia utilizzato le ferie arretrate, un po' di cassa integrazione non in maniera drammatica, ma un po' ne ha usata, un po' di patti di solidarietà per reggere il colpo, scorte di magazzino svuotate, così. Che se però da settembre, ottobre, novembre i segnali non saranno più consistenti, le difficoltà saranno per interi comparti e settori industriali. Voi questo lo vedete anche nelle proiezioni? Beh, sicuramente è così. Il tempo è cruciale, lo diceva anche Nerio Alessandri, che è il fondatore, ideatore, conduttore, nel senso di leader della Tecnogym. La velocità di reazione è importantissima. E quello che dicevo prima è appunto che occorre un rimbalzo molto forte per poter compensare una caduta altrettanto forte. Mi permetto di aggiungere che in realtà nella lunga esperienza di analisi della congiuntura mi è sempre capitato di sentire un dibattito sulla forma della ripresa ogni volta che eravamo in recessione. Questa è sicuramente gravissima, molto più grave delle precedenti, però anche in passato si parlava di ripresa U, ripresa V, ripresa W e quant'altro. Quindi non è una novità, anche perché il futuro è sempre incognito e quindi non sappiamo bene chi reagirà, come reagirà. Quello che osserviamo è che c'è una forte volontà da parte delle imprese di rimboccarsi le maniche, cercare nuovi clienti, cambiare prodotti e spingere su questo acceleratore. Però oggettivamente non basta. Se si va in giro a parlare con tanti di questi imprenditori ci si accorge che il loro livello di fatturato è dimezzato, non per tutto ovviamente, per fortuna, e di fronte a queste dimensioni è difficile diciamo immaginare di stare fermi e aspettare quello che avverrà. In effetti, dagli ultimi dati che abbiamo visto sul PIL e sulla produzione industriale, emerge chiaramente come il settore dei consumi, cioè i consumi sì, sono un po' in frenata, ma non tantissimo, meno 2,6, cito memoria. E quindi tutte le imprese che lavorano con il consumatore finale non dovrebbero passarsene in maniera così drammatica. Laddove la situazione è drammatica è invece nel settore manifatturiero, mi riferisco alla meccanica industriale, acciaio, lì abbiamo cali dal 25 al 40%. E noi sappiamo che recuperare un 40% non basta fare un più 2, un più 3, ci vogliono con quella velocità decenni. Che cosa si può chiedere da un lato alla politica, alla luce di quello che stanno facendo anche all'estero, e soprattutto al mondo bancario? Perché insomma noi continuiamo a ricevere, faremo una puntata apposita, email di soggetti che dicono le banche stanno utilizzando i soldi ricevuti dalla BCE, forse anche dai Tremonti Bond, peraltro non per allargare il credito. Beh, questo è un punto cruciale per la dinamica della ripresa. Se non ci sarà un'attività creditizia che rilanci i prestiti, che conceda i mutui che concedeva prima, perché in Italia, parliamoci chiaro, non è che siano mai stati concessi dei mutui gratis ad amore Deo, le nostre banche sono sempre state prudenti, che conceda il finanziamento per l'acquisto di un'automobile come facevano prima. Di nuovo, le famiglie italiane non sono morose normalmente, il tasso di morosità è molto basso rispetto agli altri paesi, il fenomeno subprime non ci appartiene. Che dia alle imprese i prestiti necessari per come dire, portare avanti progetti validi, perché una volta davano i soldi per 20 progetti sui 20 presentati, adesso danno i soldi per 0 progetti su 20 presentati. Ci sembra una selettività un po' eccessiva, razionale sul piano del comportamento del singolo istituto bancario, un boomerang per il sistema nel suo complesso e quindi per le stesse banche alla fine. Questo sicuramente va ricordato, e quindi come Confindustria, Presidente, fin da metà ottobre ha aperto un canale di confronto con l'ABI e continueremo a tenerlo aperto, perché ci rendiamo conto che senza il rilancio del credito non andiamo da nessuna parte. E l'altro aspetto fondamentale, anzi due direi, sono il rilancio della domanda interna. Sappiamo benissimo che grossa parte di questa crisi viene dall'export, viene dal crollo del commercio mondiale che ha colpito, come dicevi prima, i beni di consumo durevole, i beni di investimento, i beni intermedi, ma viene anche come dire, da una fiacchezza della domanda interna che in Italia dura da tanti anni. Allora si può compensare almeno temporaneamente, in attesa che il commercio mondiale riparta, questa caduta dell'export con una maggiore domanda interna attraverso investimenti, infrastrutture che da noi sono da tempo fermi. Un'ultima domanda, Luca Paolazzi, riguarda l'uso, uno spunto che mi dà un ascoltatore al 349-238-6666 e mi riferisco al ruolo della Cina. Perché? Perché se continuiamo a sentire dire che dalla Cina dovrebbe arrivare, diciamo, quella spinta alla ripresa, soprattutto nel 2010. La domanda è molto semplice, ma se la Cina di fatto è la grande manifattura del mondo e quindi aumenta la sua economia esportando, non per una domanda interna, i cinesi consumano molto poco, com'è possibile che la Cina cresca se gli europei e gli americani non comprano made in China? Allora, faccio un'osservazione che viene da un dato diffuso ieri. Le vendite di automobili in Cina sono aumentate del 30% rispetto a un anno fa. Altrettanto succedendo per gli elettrodomestici. Certo, c'è chi dice che stanno vendendo più automobili di quanto strade costruiscono o elettrodomestici più rapidamente di quanto la rete elettrica si diffonda, per cui i contadini si troveranno con delle lavatrici senza poterle far funzionare. Però di fatto c'è un impegno da parte della Cina molto forte a riequilibrare la sua crescita, esattamente in modo speculare a come stanno facendo gli Stati Uniti, dove viceversa i consumatori risparmiano un po' di più di quello che facevano prima. Speriamo che da lì arrivi anche una crescita della domanda interna. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro di Confindustria. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni da Santa Margherita Ligure. Adesso ci occupiamo di borse, poi torniamo anche sui temi delle nostre imprese e a chi ha l'ansia di ascoltare Gheddafi. Faremo sentire anche le proposte di Gheddafi, parleremo anche dei nuovi rapporti Italia-Libia, così come delineati dal leader libico. Le borse chiudono la settimana in calo, devo dire Milano è quella che perde di più, ma nulla di troppo preoccupante, meno 1% sul FTSE MIB, perde lo 0,2 Parigi, lo 0,7 Francoforte, lo mezzo punto percentuale di calo Londra. L'America sta perdendo lo 0,1%, euro a quota 1,40. Tra i titoli, c'è un botto vero e proprio di bulgari, più 6,80%, in pregiro più 4,1% come Pirelli. Poi tutto il resto invece cresce molto molto meno, Banco Popolare più 1,1% come Enel e Parmalat, UbiBanca più 0,6%. Quindi sono bulgari, in pregiro e Pirelli, diciamo, i titoli in evidenza tra quelli che più crescono. Tra quelli che invece più perdono segnaliamo la Popolare di Milano, che è il peggior titolo, meno 4,24%, Campari meno 3,2%, Mondadori meno 2,2%, Tenaris meno 2% come A2A e Fondiaria Sai. Livia Zancaner, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, partiamo dai titoli che hanno più guadagnato: Bulgari, Impregilo e Pirelli. Sì, allora, Bulgari ha beneficiato del giudizio positivo di Goldman Sachs, che ha rivisto al rialzo il rating sul titolo, alzandolo appunto da vendere a comprare, ha alzato il prezzo obiettivo da 3,6 a 4,7 euro. Allora, gli analisti si aspettano ancora per un po' un flusso di notizie negative sul settore, quindi anche sulla società, ma ritengono comunque che gli attuali livelli di prezzo, queste notizie negative attese siano comunque già scontate. E inoltre, secondo gli analisti, il profilo di rischio del titolo è ora attraente grazie a una struttura finanziaria più equilibrata, quindi in grado di sostenere gli utili anche a fronte di una crescita dei ricavi modesta. Per quanto riguarda Impregilo, invece, allora, ieri soci di Igli, che è la finanziaria di riferimento, hanno firmato un nuovo patto di sindacato che durerà solo un anno. Comunque la firma del patto, bene o male, era attesa, e nel contratto è stata inserita una clausola che consente ai soci di acquistare indirettamente un altro 5% del capitale. Inoltre sono tornate le indiscrezioni di un possibile interesse dei fondi sovrani libici sulla società, come peraltro già era circolato alla fine dello scorso anno. Per quanto riguarda Pirelli, invece, ad oggi i riflettori sono stati puntati bene o male su tutta la galassia che fa capo a Marco Trocchetti Provera. Infatti Pirelli, anche la Camfin, infatti. Sì, Pirelli in particolare ha beneficiato di un report di Deutsche Bank che consiglia di acquistare le azioni, credendo in particolare nello scorporo della divisione pneumatici Pirelli Tire, che potrebbe compensare, grazie a un andamento positivo del business, invece l'andamento di Pirelli Real Estate. Pirelli Real Estate ha invece ceduto appunto oltre il 6% dopo che ieri è stato fissato il prezzo dell'aumento di capitale, e a monte invece di Pirelli Camfin, che è il socio di riferimento, ha guadagnato oltre il 4%. Allora, oggi è in calendario un CDA, come comunicato dalla società stessa, per trattare il rafforzamento patrimoniale finanziario del gruppo, mentre secondo indiscrezione del Corriere.it il CDA dovrebbe valutare anche l'ingresso nel capitale di un nuovo socio, che sarebbe la famiglia Malacalza di Genova. E quindi l'intera società che fa capo a Tronchetti Provera, che ha come riferimento Tronchetti Provera, oggi protagonista in borsa: in negativo le Pirelli Real Estate meno 4,7, in positivo le Pirelli normali più 4 e in positivo anche le Camfin più 4,3%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancaner, si diceva di altri titoli, chiaramente Bulgari, Impregilo e Pirelli da un lato l'hanno fatta da padroni nei rialzi, tutti gli altri sono staccati. Enel però guadagna un 1,1%. Tra l'altro, Livia, oggi era l'ultimo giorno utile per trattare in borsa i diritti sull'aumento di capitale, no? Sì, in realtà allora Enel ha invertito la rotta sul finale, perché infatti per gran parte della seduta ha viaggiato in territorio negativo. Oggi sì, appunto, era l'ultimo giorno di trattazione dei diritti legati all'aumento di capitale da circa 8 miliardi di euro. Dall'inizio dell'aumento di capitale, cioè da lunedì 1 giugno, le azioni hanno mostrato un andamento comunque contrapposto, nel senso che a parte questa inversione di rotta di oggi sul finale, hanno perso il 6% fino all'8 giugno e poi hanno iniziato a risalire. Comunque gli operatori già qualche giorno fa avevano preannunciato un maggiore interesse verso la società con il procedere dell'iter dell'aumento di capitale, e inoltre le azioni sono state spinte nei giorni scorsi grazie alle indiscrezioni su un interesse per il gruppo italiano da parte del fondo sovrano China Investment Corporation. Allora, questo per quello che riguarda il titolo Enel e appunto la scadenza sull'aumento di capitale. Passiamo invece a chi ha perso. La Popolare di Milano, meno 4,2%, un calo nettamente superiore a quello di altri bancari, Intesa perde l'1,6%, per esempio Fondiaria Assai l'1,9%, Alleanza l'1,4%, Unicredito perde l'1,3%. Come mai la Popolare Milano in calo così netto? Allora, non ci sono novità ufficiali in realtà sul titolo, ma sembra che gli investitori appunto abbiano preferito vendere le azioni che avevano guadagnato di più nei giorni scorsi. Mm-hmm. Allora, la Banca Popolare di Milano infatti da lunedì a mercoledì, quindi in tre sedute, hanno guadagnato circa il 6%. Ad esempio oggi le UBI Banca sono continuate a salire, portando a quasi il 4% gli acquisti da lunedì, mentre il Banco Popolare, che ha chiuso in territorio positivo come UBI Banca, ha mostrato un andamento positivo da lunedì, guadagnando il 3% circa. Quindi in realtà oggi le banche hanno mostrato un andamento bene o male contrastato, ma è una tendenza che si è riscontrata per tutta la settimana. Mediaset ha tutto sommato limato le perdite, Mediaset, anche perché oggi, tra l'altro, in un convegno organizzato al Sole 24 Ore a Milano, il presidente Confalonieri ha mostrato un cauto ottimismo sulle prospettive di raccolta pubblicitaria. Sentiamolo al microfono della nostra Valeria De Rosa. Forse è presto per dirlo, perché noi chiudiamo il semestre e poi dopo abbiamo due mesi che sono sempre stati di stanca, luglio, agosto, e quindi i veri segnali li vedremo a settembre. Quindi aspettiamo, voglio dire, anche per scaramanzia, va. È così, Livia? Le parole di Confalonieri hanno comunque un po' tranquillizzato il titolo? Sì, in realtà sembrerebbe di sì. Infatti Confalonieri ha anche detto che c'è comunque un cauto ottimismo, e ha aggiunto infatti che sembrano esserci qualche segnale di miglioramento, e in effetti sul titolo sembra che questo abbia avuto impatto. Infatti Mediaset ha chiuso a meno 0,24%, mentre un altro titolo come Mondadori ha chiuso a meno 2,27%. E qui si spiega la differenza tra i due titoli. Andiamo avanti. La Mariella Burani, che è stato oggetto di forti acquisti nei giorni scorsi, anche dopo notizie uscite che le banche sarebbero d'accordo nel consolidare i debiti, cioè insomma nel garantire i debiti. Sì, infatti allora Mariella Burani oggi ha chiuso in territorio positivo, ha limato leggermente i guadagni sul finale, ma appunto le azioni oggi hanno beneficiato di indiscrezioni stampa secondo le quali la società avrebbe ottenuto un assenso di massima dalle banche per il consolidamento dei debiti. Bisogna ricordare che comunque le azioni sulle preoccupazioni finanziarie avevano perso in una settimana addirittura il 18%. Oggi ha guadagnato terreno anche la controllata Antichi Pelletieri, che è salita del 9% circa, e anche questa aveva perso circa il 60% però da inizio marzo a ieri. Altri titoli più sottili, dicevamo dei petroliferi. Beh, dopo i guadagni dei giorni scorsi, il petrolio si mantiene, per carità, intorno ai $72 al barile, per cui sempre forte, però qualcuno è andato a vendere, per esempio su Eni meno 1,7%, come su Saipem, che perde anch'essa l'1,7%. L'ultimo dato ci chiede di UbiBanca in effetti è positiva oggi, più 0,6, così come lo è Snam Rete Gas. L'America sta adesso perdendo uno 0,2%. Grazie a Livia Zancaner e un buon fine settimana ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. 18:09, la seconda parte di Focus Economia in diretta da Santa Margherita Ligure. Torniamo su alcuni dei temi emersi oggi nella prima giornata di lavori, soprattutto vedo anche alcuni sms, soprattutto sulla proposta avanzata in apertura dalla Presidente Federica Guidi di tornare alla Tremonti bis, chiamata non a caso Tremonti Ter, e anche di questo torneremo a parlare. Ascoltiamo però da questa scheda quali sono i temi sul tappeto di questo convegno che è iniziato oggi, durerà anche domani, i temi sul tappeto alla luce anche delle difficoltà delle imprese italiane in questo momento. Qual è il passaggio economico che ci troveremo davanti una volta passata la bufera? La risposta dovrebbe arrivare nel 2010, quando, dopo un 2009 in apnea, tornerà un po' di sereno con qualche punto decimale di crescita del PIL. Il nostro paese ha sinora sofferto meno di altri l'impatto della crisi e non ha aggravato eccessivamente le sue finanze pubbliche, visto che gli incentivi messi in campo valgono sinora circa lo 0,3% del prodotto interno lordo. Ma se il PIL diminuisce, inevitabilmente peggiora il rapporto con deficit e debito. E lo stato delle finanze pubbliche si fa più pesante. Secondo lo stesso Ministero dell'Economia, nel 2010 il nostro deficit si attesterà al 4,6%, mentre il debito supererà il 117% del PIL. Crescerà anche la pressione fiscale, che già quest'anno supererà il 43% del PIL. Altro dato allarmante è quello sulla disoccupazione, che da qui al 2010 potrebbe raggiungere il 9%. Queste le cifre da cui bisognerà ripartire e di fronte alle quali si moltiplicano gli inviti all'esecutivo perché appronti riforme in grado di rendere più efficiente il nostro sistema produttivo, arginare la crescita delle diseguaglianze e migliorare lo stato dei conti pubblici. In questa direzione andrebbe un progressivo innalzamento dell'età di pensionamento, in linea con gli andamenti demografici. Correttivi dovrebbero poi riguardare gli ammortizzatori sociali, in modo da estendere le tutele per chi resta senza occupazione anche ai lavoratori che ne sono privi. Inoltre andrebbe ripreso il cammino delle liberalizzazioni, finite al momento nel dimenticatoio, a cominciare da quella dei servizi pubblici locali, che giace in Parlamento bloccata da un'opposizione trasversale ai vari schieramenti. Infine, una rimodulazione fiscale per le imprese che ne agevoli gli investimenti in ricerca e sviluppo. Questa l'agenda per i prossimi mesi. Nell'immediato, invece, è fondamentale rendere pienamente operativi gli strumenti messi in campo dal governo per dare ossigeno finanziario alle aziende soffocate dalla stretta creditizia. Quindi ossigeno finanziario, ma anche le liberalizzazioni. Su questi due temi è intervenuta, come ricordavamo, la Presidente dei Giovani Industriali Federica Guidi. Ascoltiamola proprio sul tema delle liberalizzazioni, visto che nella prima ora del programma abbiamo sentito l'ex ministro Bersani criticare il governo perché ha messo in armadio, ha fatto dei passi indietro sul tema delle liberalizzazioni. Noi abbiamo detto che è un tema da riprendere, naturalmente crediamo che per un governo come questo, insomma, sia un tema abbastanza, dovrebbe essere un tema, diciamo, abbastanza semplice, ecco, da ricominciare a considerare. Liberalizzare i servizi pubblici locali significa anche in qualche modo avere una misura anticiclica, nel senso di creare nuovi mercati interni, aiutare alcune aziende magari a riconvertirsi, alcuni settori industriali che oggi magari soffrono a trovare uno sbocco in un mercato interno, oltre naturalmente ad abbassare i prezzi, le tariffe per i consumatori, per le imprese, per tutti noi cittadini. Così Federica Guidi al microfono della nostra Anna Marino, e poi la proposta fiscale. Allora, non tutti ricordano la Tremonti bis. La Tremonti bis si chiamò bis perché era la riproposizione di un provvedimento identico del 1994. La Tremonti bis fu fatta nel 2001, ecco perché oggi è arrivata la proposta di una Tremonti ter, visto che andrebbe fatta nel 2009. Consisteva nel far pagare meno tasse a chi acquistava, o meglio, investiva gli utili per acquistare beni strumentali. Beni strumentali, lo dico a chi ce lo chiede, vuol dire sostanzialmente attrezzature, impianti, anche mobili o computer, qualunque cosa che serva a un'impresa per andare avanti. L'importante, secondo la legge Tremonti bis, era che questi investimenti avessero degli importi superiori a quelli registrati negli anni precedenti. veniva dal punto di vista tecnico escluso dalla tassazione del reddito di imprese e del lavoro autonomo il 50% di questi beni, di questi investimenti in beni strumentali. Il 50% chiaramente in eccedenza, in più rispetto agli investimenti medi effettuati rispetto a questi beni negli anni precedenti dalle imprese. La proposta di Federica Guidi. Ma io credo sia difficile oggi dire a che punto siamo. Ci sono effettivamente dei timidi, flebili segnali, una fioca luce si vede. Cerchiamo di non farla spegnere, per quello che oggi ne abbiamo detto con forza, crediamo che ci sarà un dopo, ci crediamo come imprenditori ma anche come giovani. Però appunto bisogna investire sulla crisi e bisogna mettere mano a quelle riforme che il nostro paese aspetta da 15 anni. Le misure che abbiamo proposto sono naturalmente prevalentemente sul tema fiscale, quindi una rimodulazione sostanzialmente della fiscalità a vantaggio delle imprese che vogliono continuare a investire per mantenere occupazione, per fare ricerca, per fare naturalmente per cercare di continuare a fare utili e per patrimonializzarsi meglio. Questo vuol dire continuare a fare il mestiere di imprenditori. Poi ritornare sui grandi temi che possono sembrare un po' passati di moda come quelli delle liberalizzazioni, ma che invece crediamo oggi siano a maggior ragione urgenti e importanti. Mi sembra di vedere insomma che ci sia uno spirito di collaborazione, ecco, e penso che sia bene continuare a investire su questo perché, come ha detto anche adesso nel suo intervento il ministro Matteoli, questo è un problema che abbiamo tutti naturalmente, quindi credo che ognuno col proprio ruolo, ognuno col proprio ambito si debba cercare di fare tutti del proprio meglio per dare un proprio contributo, ecco, a far ripartire questo paese per il bene di tutti e per il bene naturalmente anche dei giovani che in questo paese poi troveranno le opportunità di lavoro. Noi oggi qui abbiamo detto che vorremmo uscire un po' dalla guerra di classe fra imprenditori e banchieri. Certo ci sono delle difficoltà, non lo neghiamo, c'è una vischiosità, una farraginosità nelle concessioni del credito che in parte ci preoccupa, però crediamo anche che una riscrittura delle regole non così procicliche come quelle che abbiamo avuto fino ad oggi forse possa essere la strada mersa da perseguire. Le banche sono imprese, quindi è evidente che come tali si devono comportare, è giusto però appunto che condividono con le imprese il rischio di stare sui mercati. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Si diceva allora della visita molto molto coperta giustamente dai giornali oggi del leader libico Gheddafi. Noi ce ne occupiamo chiaramente per quello che riguarda i rapporti economici. Oggi è la terza giornata a Roma della visita di Gheddafi, che proprio oggi ha incontrato gli imprenditori riuniti in Confindustria. Un'occasione questa per ribadire l'importanza del nostro paese, per il nostro paese, di un mercato come quello libico. Noi tra l'altro, lo ricordo, siamo il primo partner industriale e commerciale del paese nordafricano, con un interscambio che, quindi tra import e export, che vale intorno ai 20 miliardi di euro. Tra l'altro le nostre esportazioni hanno raggiunto un nuovo record nei confronti della Libia, pari a 2 miliardi e 600 milioni di euro, un più 62%. Certo che c'è un deficit commerciale con la Libia, anche perché la Libia esporta materia prima petrolifera e le nostre importazioni libiche sono pari a 17 miliardi di euro, anche questa in crescita del 24%, tutti i dettagli nella scheda. Quarto paese africano per ordine di grandezza, oltre 6 milioni di abitanti, la Libia presenta un'economia dinamica con una crescita che negli ultimi tre anni ha superato il 6%. Per il 2009, poi, è previsto un progresso del PIL del 5,1%. E nella corsa alle opportunità del mercato libico, l'Italia è in pole position. Siamo infatti il primo partner industriale del paese nordafricano, con una quota del 41% delle importazioni e del 13% delle esportazioni. In costante crescita, l'interscambio commerciale tra i due paesi ha oltre 20 miliardi di euro nel 2008. In dettaglio, le nostre esportazioni sono salite del 62%, al valore record di 2,6 miliardi di euro. In forte aumento anche il nostro import, più 24%, a oltre 17 miliardi di euro, costituito in prevalenza da petrolio e gas. Sbilanciato dunque a favore di Tripoli il saldo commerciale per circa 14 miliardi di euro. L'Italia è anche il terzo investitore europeo, escludendo il petrolio, e il sesto mondiale. E l'importanza del mercato libico per noi è testimoniata dalla presenza nel paese di oltre 100 nostre imprese. Fra le più attive Enel, Trevi, Impregilo, Italcementi e Finmeccanica. Risale al 1959 la presenza dell'ENI, che oggi pompa dai pozzi petroliferi più di 250.000 barili al giorno, ossia quasi il 30% del greggio importato dall'Italia. Accanto all'oro nero, la Libia ci fornisce anche il gas, tramite il metanodotto collegato a Gela, da cui ci arriva circa il 12% del gas comprato all'estero. Ma le opportunità per le nostre imprese passano anche da progetti per l'ammodernamento dei porti, delle strutture turistiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Ma se noi siamo presenti in Libia, anche la Libia è presente in Italia sotto forma di partecipazione al capitale di alcune imprese. Il fondo sovrano Libyan Investment Authority, che dispone di un capitale di 65 miliardi di dollari, ha infatti quote in Unicredit 4,6%, Eni 1% e nella Juventus con il 7,5%. Questi rapporti commerciali, industriali e anche finanziari, viste le quote in Unicredit o nella Juventus dello Stato libico e in Eni, chiaro, ecco, lo dico a chi scrive, che noi siamo in deficit commerciale, lo diciamo anche prima, con la Libia per 17 miliardi di euro, cioè noi importiamo dalla Libia 17 miliardi di euro più di quanto non riusciamo a esportare nella Libia stessa, ma non deve, ripeto, sorprendere visto l'export, la caratteristica dell'export libico, ossia gas e soprattutto petrolio. Cosa ha detto oggi Muammar Gheddafi? Ha detto che darà priorità alle imprese italiane, ma ha anche avvertito, attenzione, le imprese italiane che intendono lavorare in Libia devono stare attente che chi corrompe viene cacciato dal popolo libico che ha fatto la rivoluzione contro il colonialismo, ma anche contro la corruzione. E poi ha aggiunto, oggi non servono militari, ma servono imprese. L'incontro che ha avuto con la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia ha portato anche una dichiarazione di Emma Marcegaglia, che ha definito i rapporti bilaterali tra la Libia e l'Italia a una svolta. Non ho timore a definire questa sua visita una visita molto importante per le relazioni tra i due nostri paesi, soprattutto oggi ovviamente parliamo delle relazioni economiche. Ho potuto sperimentare in prima persona l'atteggiamento di apertura della Libia nei confronti del nostro paese. Mi sono infatti recentemente recata a Tripoli su invito del primo ministro Mahmoudi per discutere dell'opportunità della creazione di una zona franca dedicata esclusivamente alle imprese italiane. Come noto, noi siamo attualmente il vostro primo partner commerciale, con una quota del 41% delle importazioni nel paese e del 13% delle esportazioni. Siamo anche il terzo investitore europeo, escludendo gli investimenti nel petrolio, e il sesto a livello mondiale. Siamo presenti in Libia da molti anni con un numero importante di aziende, ma anche la presenza libica in Italia è in crescita, è importante e fa intravedere opportunità di ulteriore rafforzamento. Penso all'ingresso nel capitale di Unicredit e l'interesse annunciato di investire in altre importanti aziende italiane. Quindi credo proprio di poter dire che siamo di fronte a una svolta nei rapporti economici tra i nostri paesi, che sono certa ci condurrà a un'intensa e strutturata collaborazione bilaterale e anche al superamento di quelle condizioni storiche che hanno caratterizzato il nostro recente passato. E poi ha aggiunto la Presidente di Confindustria, mi sembra che la Libia sia molto interessata a rafforzare la sua presenza nelle imprese italiane, e ha chiesto però alla Libia anche una zona franca per le imprese italiane che la investiranno, una zona franca con un trattamento economico e fiscale speciale dall'esenzione per 5 anni delle tasse sul reddito a prezzi scontati di elettricità e gas. Voglio ricordare il trattato che prevede lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per la realizzazione di infrastrutture in Libia, sarà portato avanti da aziende italiane e garantirà alle nostre imprese un volume di attività a condizioni agevolate per i prossimi 20 anni. Il governo libico ha previsto di stanziare nei prossimi anni 11,8 miliardi di euro per attrarre investimenti diretti esteri. anche attraverso la creazione di joint venture di natura privata per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico della Libia. Credo che vi siano davvero sinergie notevoli tra le nostre imprese che operano con successo nei settori considerati strategici dal governo libico. Ne cito solo alcune: infrastrutture e costruzioni, energia, meccanica, petrolchimica, agroalimentare, turismo, energie rinnovabili. Sono convinta che la capacità imprenditoriale e tecnologica delle nostre imprese potrà offrire occasioni concrete di realizzare lo sviluppo industriale della Libia, anche proprio attraverso la costituzione di questa zona speciale. E credo che questo potrà aumentare il ruolo di partner prioritario dell'Italia, non solo per la Libia, ma per l'intera sponda del sud del Mediterraneo. La posizione strategica della Libia, proprio al centro di questa area, la rende infatti un hub naturale verso i paesi limitrofi del Maghreb, del Mashrek, ma anche dell'Africa subsahariana. E con questa dichiarazione di Emma Marcegaglia si chiude la puntata e la settimana di Focus Economia. Un ringraziamento a Peter Bascapè in regia, a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma qui da Santa Margherita Ligure, a Flavio Cantadori per la regia a Milano e a Barbara Bianchi per l'assistenza al programma. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.